Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buongiorno da Nicoletta. Oggi una puntata particolare in cui vogliamo provare a dare una spiegazione a tutte quelle cose che diciamo senza rendercene conto, senza volere. Una parola al posto di un'altra, quella che abbiamo sulla punta della lingua, le papere, le gaffe, i lapsus. A volte sono divertenti, a volte mettono in imbarazzo, ma se iniziano a diventare frequenti ci mettono quella pulce nell'orecchio che ci dice: ma che mi sta succedendo? Sto perdendo i colpi? Sono stanca? È il mio inconscio che mi parla? Chiamateci 800 24 00 24. Intanto saluto e do il benvenuto al professor Giuseppe Alfredo Iannoccari, che è tornato a trovarci qua in studio con me, neuropsicologo e presidente di Assomensana. Buongiorno. Buongiorno Nicoletta, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Allora, io farò di lei il nostro brain personal, perché lei allenerà il nostro cervello, le nostre competenze, ci aiuterà anche a scoprire come far riposare il nostro cervello o come intrattenerlo in cose piacevoli che lo facciano poi sentire bello arzillo e quindi a lavorare bene. Che dice? Sicuramente mi proporrò un esercizio che serve proprio per allenare quelle abilità mentali che servono per ridurre il fenomeno fastidioso del lapsus, almeno di uno dei lapsus. Allora, lo facciamo subito? Lo facciamo subito. Lei però non ci faccia esercizi molto difficili, perché in questo periodo dell'anno devo dire che siamo molto stanchi. Il nostro cervello bolle, un po' per gli impegni, un po' per la stanchezza, un po' per il caldo. Comunque noi accettiamo la sua sfida. Facciamo un esercizio estivo. Sì. Ecco, si tratta di questo. Partiamo da una parola, ad esempio mare. E sostituiamo una lettera nella parola mare, ad esempio la M, per arrivare alla parola care. Sì. E poi continuiamo ancora a sostituire una parola che per esempio può essere la R, da care passiamo a case e poi da case a casa. Ecco, in questo modo noi abbiamo trasformato la parola mare, sostituendo una lettera per volta, fino ad arrivare a casa. Quindi da mare a casa. In quanti passaggi è importante questo? Sì. In 3 passaggi. Perché ci sono vie più lunghe, ma noi dobbiamo essere efficienti, per cui è possibile arrivare allo stesso risultato in meno passaggi. La sfida che noi proponiamo è quella di fare la soluzione più efficiente nel minor tempo possibile. Allora, quindi mare ormai la sappiamo. È ormai facile. Quale parola ci dà su cui lavorare? Una parola che dà l'idea del movimento, quindi propongo di partire dalla parola moto per arrivare alla parola raso. In quanti passaggi? 3 passaggi. 3 passaggi. Allora, 800, vedo Carmelo Lauricella che è già lì, che ha la testa che fuma. 800 24 00 24. Facciamo così. Voi allenatevi moto, raso in 3 passaggi. Chiamate, dovete dire al centralino la nostra parola magica. Chiamo per la moto. Laura Vanossi vi darà subito la linea e se avete fatto i passaggi giusti potrete ricevere a casa il consiglio di lettura di oggi, che è il lapsus freudiano, psicanalisi e critica testuale, in collaborazione con la Rizzoli. La cosa che ha detto l'onorevole Bocchino è interessantissima, perché l'onorevole Bocchino ci ha rivelato, scusate, è un lapsus freudiano forse. Buonasera e benvenuti al TG1. Allora, Berlusconi ha fatto questa... Benvenuti al TG1, un bel lapsus, scusate, ma perché volevo dirvi che Berlusconi ha fatto un'intervista in esclusiva poco fa al TG1, mio ex telegiornale. Io ho sentito l'invito del Presidente del Senato, Schifani, del Presidente della Camera, Fini, del Presidente del Consiglio, leader del centrodestra, Veltroni. No, Veltroni sta ancora nel centro-sinistra. Berlusconi. Allora, divertenti, a volte imbarazzanti, ma percepite come errori, mancanze. In realtà anche i lapsus aiutano, anzi, possono diventare strumento di analisi. Non per tutti, ma sicuramente per il professor Andrea Moro, che è ordinario di linguistica generale alla Scuola Superiore Universitaria USS di Pavia. Buongiorno. Buongiorno a lei e buongiorno a tutti. Insomma, noi ce ne vergogniamo, oppure insomma ci giustifichiamo, ma voi invece i lapsus li studiate. Eh sì, dunque, sperando di non farne proprio adesso. Sarebbe bello. Sì, ma mi capirà di sicuro. Ma insomma, il lapsus, che in fondo etimologicamente non sono nient'altro che gli scivoloni, servono alle volte proprio per capire la struttura nascosta del linguaggio, perché una delle cose che fa il linguista è andare a caccia delle particelle elementari che costituiscono le parole e le frasi. Questo gioco proposto prima dello scambio è molto interessante, proprio perché dai lapsus, ad esempio, si capisce che una cosa che chiunque ha imparato a scuola, cioè che esistono per esempio le parole prefissi, suffissi, facciamo un esempio semplice, posso dire ragazzo e uso un accrescitivo, dire ragazzone, sì. E cioè un aggettivo come debole posso dire deboluccio e quindi ho un ragazzone deboluccio. E alle volte si possono fare dei lapsus scambiando proprio suffissi con suffissi, dire un ragazzuccio debolone, sì. E ti capita parlando, oppure puoi sbagliare e cambiare soltanto un suono e dire un dagazzone reboluccio. Insomma, scambiando pezzettini di parole si mostra che il cervello sa quali sono queste particelle elementari e quindi in assenza di altri esperimenti può essere molto utile. Poi questo stesso tipo di esperimento può essere utilizzato per capire per esempio una cosa molto molto interessante. Quando noi parliamo ci si chiede sempre, ma noi stiamo sfogliando rapidamente il dizionario che abbiamo nel cervello e ogni volta aggiungiamo una parola, o con una frase le parole arrivano tutte insieme e poi le dispongo in fila? Allora i lapsus alle volte, quando anticipano una parola che dovrebbe stare alla fine di una frase, ti fanno capire che la seconda ipotesi è quella giusta. Anche qui con un esempio ce la caviamo facilmente. Qualche volta magari invece di dire ti assicuro che non lo dico più, va a finire che io dico ti dico che non lo assicuro più. E quindi quello che succede è che la parola che doveva venire dopo si sa già prima. Allora anche in questo caso si capisce un po' come si organizza il cervello, come funziona la disposizione delle parole. E poi ci sono anche altri casi. Per esempio un caso molto interessante è intrecciare il lapsus nel caso di persone bilingui. Sì. Noi abbiamo in testa evidentemente il dizionario di lingue diverse. E faccio una cosa che nessuno scienziato dovrebbe fare, cioè parlare di casi aneddotici che riguardano se stesso. Ma io ad esempio ho imparato l'inglese e il dialetto pavese alla stessa età, cioè a 7 anni, e mi capita quando parlo di scambiare proprio parole non dell'italiano con l'inglese o dell'italiano col dialetto, ma dell'inglese col dialetto. Quindi mi capita di dire, invece che, faccio un esempio molto semplice, l'endat via, che vorrebbe dire è andato via, mi è capitato di dire l'endat away, con il risultato che non mi capirebbe né un inglese né un pavese. Casi di questo tipo ce ne sono tantissimi. È molto interessante vedere anche in questo caso capire che cosa si sostituisce. Queste prove di commutazione, al di là delle battute, insegnano proprio a capire le venature nascoste della struttura della grammatica. Questi blocchetti primitivi si possono cambiare tra di loro soltanto in modo omogeneo, parola con parola, sillaba con sillaba, prefisso con prefisso e via dicendo. Quindi c'è un ordine. Me ne vado un buon vacanza, chissà come passa sta ulcera trafolata. Ero indecisa perché mi è arrivato un da Pilan per andare a Sharm el-Sheikh, non lo so, se abbiamo tanto posto bello qua in Italia, c'è l'isola d'Erba, poi c'è Bronze del Riacido, la Crosta Smeralda, Trentino Alto Algida, comunque andata alla US, che viaggio sempre in macchina, però siccome sai d'estate, lo dice anche la radio, viaggiare infornati, ho detto questo quasi mi piglio l'aereo, no? Ho andato a questo ufficio, dice signora, dice lei vuole fare un last minute? Anche un last giorno, la settimana, last mese, basta che lasso, perché dice, signora vuole affidarsi a un tour operator? Mi dovrei operare, ma perché c'ho i calcoli, quello commercialista mi ha fatto venire i calcoli. Dice, signora, vuole fare una business class, economy class, all inclusive, bread and breakfast. Scusa, ma siamo ancora in Italia o siamo già partiti? Professor Moro, è sconsolato anche lei? Sì, direi di sì. Ma è il bello. Vedi, sì. Una delle caratteristiche fondamentali dell'uomo non è solo il linguaggio, è anche l'ironia. E quando l'ironia ti viene spontanea va benissimo. Senta, lei li fa lapsus di frequente o raramente? Io sono cintura nera di lapsus. Ah, come me. Allora possiamo darci la mano. Sì. Siamo colleghi. Certamente. Allora, arrivano molti messaggi, tra l'altro professor Moro, che ci raccontano un po' gli scambi, come ha suggerito lei, ad esempio rullare lo sviluppino. Sì. Ci scrive Felice, che mi sembra, sì. un esempio felice. Sì. Professor Moro, grazie per essere stato con noi. Grazie a lei. Buona giornata. Grazie. Allora, noi però torniamo ai nostri lapsus, alle parole che non vengono, a quelle che diciamo al posto di un'altra. Non preoccupatevi, se vi succede siete in ottima compagnia, e anche perché in linea con noi abbiamo il professor Piero Barbanti, che è tornato a trovarci. Professore, buongiorno. Buongiorno Nicoletta, buongiorno a tutti. Primario neurologo all'Istituto Scientifico San Raffaele Pisana di Roma. Professore, allora, i lapsus che cosa sono? Beh, per un neurologo? Direi una cosa comica, cominciamo con una battuta. Pensate che il primo a sfruttare i lapsus in maniera comica è stato Nino Frassica. Veniva voglia di fare questo paragone sentendo il precedente inserto. Il lapsus è un errore legato al fatto che tutta l'attività del nostro cervello non sembra, ma è di una complessità enorme, sia quando parliamo, che quando scriviamo, che quando gesticoliamo. Come può fare il cervello fronte a queste difficoltà oggettive? Fa fronte preparando dei pacchetti automatici. Sentivamo prima Lili Gruber, che aveva evidentemente in automatico la storia del TG1 e evidentemente non è riuscita a passare rapidamente, un po' come quei ballerini che devono passare da un passo a un altro, di danza si intende, al cambio della musica sottostante. Il cervello serve sostanzialmente, quando funziona molto bene, a bloccare l'ingresso di automatismi non desiderati. Perché escono fuori questi errori? Quando escono fuori? Da un lato un eccesso di richiesta. Io chiedo al cervello un qualcosa che non può fare, un'eccessiva velocità di funzione, questo è tipico, non so, di un oratore o di un presentatore, e lì evidentemente casca l'errore. Eccesso di emozioni, si vedrà poi, oppure quando il cervello non funziona molto bene, cioè incomincia a scricchiolare. Cosa succede in tutti questi casi? Lo spettacolo teatrale che va in scena, che è la nostra perfetta performance mentale, lascia intravedere cosa c'è dietro le quinte, il lavorio complesso, il backstage, ed ecco che esce fuori il lapsus, che a volte è estremamente simpatico, può far capire molte cose, altre volte, non così frequentemente, deve far riflettere e semmai andare a fondo con gli accertamenti. Ma noi abbiamo cercato di fare un mini sondaggio, una vox populi, per chiedere ad alcuni milanesi una definizione di lapsus, cercando anche un po' di intravedere le cause di questi scivoloni. Lapsus, quando una persona, c'è un lapsus, vorrebbe dire una cosa invece dice un'altra e potrebbe essere fraintesa. Può essere un lapsus anche carina, cioè non è che sempre è negativo, vero? Io credo che sia, il motivo è perché siamo delle persone, cioè almeno parlo per me, sono una persona molto istintiva e impulsiva. Qualcosa che affiora nel momento in cui meno te l'aspetti e quindi viene fuori questo pensiero, questa emozione. E questa sensazione chiaramente non è razionale, il lapsus. Spesso e volentieri perché sono distratto. Le cose che mi interessano magari no, però se sono distratto a volte può capitare che uno di me è involontario. Troppe cose da cui pensare, più lapsus. Non mi ricordo il nome, non mi ricordo il nome di quella persona, non mi ricordo il nome della via, poi torna. Tantissimi, perché sono distratto e penso a troppe cose allo stesso tempo. Annoccari, lo stress, l'affaticamento, la mancanza di concentrazione, poi molti di noi mettono nella stessa categoria il lapsus, dire una cosa al posto di un'altra, come ci ha spiegato bene anche il nostro professor Moro, con la parola che non ti viene, incontri una persona e sai perfettamente di conoscerla, però ti sfugge, oppure dici dove l'ho incontrata, ecco, delle mancanze, o ancora capita per cerchiamo gli occhiali, li cerchiamo ovunque, ce li abbiamo in testa. Sono tutti lapsus, abbiamo dei lapsus differenti che non riguardano solamente magari il nostro linguaggio, ma anche alcuni gesti? I lapsus possono essere diversi. Come perché dimostro. Ce l'ha uno se la tira un po' a parlare di lapsus. Professor sì. Barbanti, rischiamo di farli anche noi, oggi, più del solito per me. Professor Iannoccari. Sicuramente, come diceva il professor Barbanti, abbiamo tante cose contemporaneamente che vorremmo fare, abbiamo fretta, così come dicevano anche gli intervistati, e molte faccende sovrastimolati. Sì, per cui il nostro sistema cognitivo fa fatica, non è abituato o comunque non è arrivato al punto di sviluppo che può gestire tante informazioni come quelle che vengono offerte dal mondo moderno contemporaneamente, per cui qualche difetto poi alla fine viene fuori. I deficit possono essere diversi, possiamo avere, come diceva l'intervistato, delle anomie, cioè non ci viene in mente il nome della persona, oppure vado in un'altra stanza, non ricordo che cosa sono andato a fare. Un classico. Quelli che vengono chiamati atti mancati, oppure quelli che diceva il professor Moro rispetto al cambio della parola, quindi quegli agrammatismi che invertono delle lettere di una parola e creano dei neologismi, così come abbiamo anche delle sostituzioni. Di questo sono abbastanza esperte le mamme quando chiamano i figli col nome del fratello, della sorella, va bene, col fastidio del... Poi loro si arrabbiano. E loro si arrabbiano, sì. Però insomma viene, soprattutto quando i figli sono più di uno. Intanto, professor Barbanti, lei non era ancora in linea, ma noi abbiamo invitato gli ascoltatori a fare un gioco, a partire da una parola, un po' un gioco che allena il nostro cervello, a partire da una parola, moto nello specifico, vero? E arrivare ad un'altra, raso, con tre soli passaggi. Sentiamo i nostri ascoltatori se hanno risposto, e all'800 24 00 24 abbiamo Giorgio da Ragusa. Buongiorno Giorgio. Buongiorno. I miei tre passaggi sarebbero mito, rito e riso. Ma lei deve arrivare a raso. Sì, tre passaggi intermedi, quindi da moto a mito, sì. Da mito a rito, sì. Da rito a riso, sì. E da riso a raso. Io direi che il nostro ascoltatore, professore, è lei che fa il professore, promosso? Promosso a pieni voti. Allora, farsi era troppo facile, perché anch'io ero quasi in grado di farlo. Giorgio, comunque, in collaborazione con la Rizzoli, lei può ricevere a casa il lapsus freudiano, psicanalisi e critica testuale, però, mi dica l'ultimo lapsus o l'ultima gaffe che ha fatto. Io ne faccio tanti, quindi... sarebbe piuttosto difficile. Facciamo puntata, va bene. Allora buoni lapsus anche a lei, e intanto riceverà a casa il libro. Grazie per essere stato con noi, professor Barbanti. Ma noi dobbiamo preoccuparci o no? Beh, se vogliamo riprendere un po' il filone così della conversazione un po' anche ironica, preoccupiamoci quando diciamo a nostra moglie un nome che non sia il suo. Noi dobbiamo preoccuparci, in realtà, a parte le battute, quando queste stranezze, quando questi lapsus si ripetono in maniera sistematica, perché il cervello ha una maniera di rispondere agli stimoli stressanti piuttosto stereotipata. Per esempio, il dire sedia anziché tavolo, quindi una parafrasia semantica, può essere frutto dello stress, ma anche di un impoverimento del nostro centro del linguaggio. Questo vuol dire che chi sta ascoltando deve incominciare a preoccuparsi, come al solito, no, ma quando esiste una riproducibilità di un disturbo in un soggetto con un'età, magari con dei fattori di rischio particolari, la cosa migliore è parlare con il medico, magari con il neurologo, perché se pensiamo bene, i test cognitivi, anche quelli più banali che noi facciamo, comprendono degli items, quindi delle voci, che servono perfettamente ad andare a scovare i lapsus, e quindi in questo caso può valer la pena un approfondimento. Essere e benessere. Parole, parole, parole. Ascoltami. Parole, parole, parole. Ti prego. Parole, parole, parole. Io ti giuro. Parole, parole, parole, parole, parole, soltanto parole, parole tra noi. Quando le parole saltano, si incrociano, forse perché la testa bolle, sovraccaricata da pensieri, cose da fare. In linea con noi abbiamo il professor Piero Barbanti, e in linea abbiamo anche Gino, che ci chiama da Milano all'800 24 00 24. Gino, buongiorno. Per 8 euro, non è. Gino? No. Buongiorno. Buongiorno Gino. Dove... Buongiorno a lei. Buongiorno. Sta comprando qualcosa? No, stavo parlando con una persona che mi aveva chiesto un'informazione a proposito di un oggetto che avevo in mano. Gino, ci racconti. Senta, mi dica lei. Ma diciamo che dato che si sta parlando di linguaggio, io da anni, durante le conversazioni, soprattutto nell'ambito o familiare o di amici che conosco molto bene, mi esprimo saltando delle parole, come se la parola non andasse di pari passo con il pensiero. Infatti sono oggetto anche un po' di presa in giro da chi mi conosce bene. Sì. Cosa però che non avviene mai quando invece mi esprimo in ambito professionale, tengo un discorso, qualche cosa. Questo avviene soprattutto quando non si parla di quotidianità, ma esprimo dei concetti. Sì. Se si parlo con delle mie figlie, di un qualche cosa che vada un po' al di là del quotidiano, diciamo, sì, allora sono così veloce nell'esprimerlo verbalmente che certe volte addirittura salto, sì, la parola. Ecco, loro mi capiscono ormai. Certo. Perché è come se io fossi cosciente che l'altro conosce un po' il concetto che voglio esprimerle. E quindi lei va un po' veloce. Esatto, ecco. Esatto. Si diceva la troppa confidenza fa cadere la riverenza, ma Gino proprio, potrebbe... È proprio così, direi che è proprio così. Professor Barbanti? Che cosa... Gino, la prima è quella che dice lui, certamente, quindi un eccesso di velocità di fronte a persone con cui si può permettere, perché non deve dimostrare nulla, se non comunicare il significato anche in una forma un po' meno corretta. La seconda invece è l'opposto, cioè il rilassarsi troppo. Ricordiamoci che solo una attenta sorveglianza dell'attività corticale del cervello consente agli automatismi di essere perfetti. A questo proposito un esempio. Sì. Chi sta all'ascolto e ha mai raccontato una favola al proprio figlioletto avendo lui un terribile sonno col figlioletto ben sveglio? Escono fuori strafalcioni, metatesi, parole con sillabe invertite per eccesso di rilassatezza. Quindi entrambe le ipotesi sono valide, una sola certezza: Gino è sano come un pesce, non ha nulla, perché in condizioni di attivazione ha delle performance eccellenti. E in una puntata dedicata all'lapsus non potevamo pensare a Freud. Fu infatti lui il primo ad averlo integrato in una teoria nella psicopatologia della vita quotidiana. Poi l'lapsus è stato ripreso naturalmente anche dalla psicoanalisi, non solamente dai freudiani, e anche dalla psicologia, ma noi vogliamo saperne di più, per cui ho invitato il professor Risé, psicoterapeuta e scrittore. Buongiorno professore, bentornato. Buongiorno. Professore, insomma, per Freud in fondo il lapsus è un po' un rigurgito dell'inconscio, o sbaglio? Sì, bisogna dire che lo era in qualche modo anche prima di Freud, perché lapsus è una parola latina e i latini ne discutevano molto, una parola che vuol dire sfuggito, scappato, scivolato fuori. E i latini proprio discutevano del lapsus vocis, della voce dal sen fuggita, come dirà poi Metastasio, oppure del lapsus calami, del calamaio, di quello che scrive e gli scappa, sì, una parola completamente imprevista. Freud riprende naturalmente tutta questa riflessione antropologica e la mette nella sua scoperta, diciamo così, anche in un certo punto, dell'inconscio. Cioè queste parole sfuggite sfuggono perché in realtà la coscienza non ce la fa più a trattenerle, e sono delle cose che l'inconscio pensa, la psiche sa, e quindi scappano fuori. Quindi è bene fare un po' attenzione ai nostri lapsus, specie se sono frequenti. Sono molto significativi, sono dei sintomi significativi. Per esempio il signore che, parlando della propria moglie, dice mia, e poi invece che moglie dice mia madre, naturalmente dice una cosa molto significativa, cioè parla del fatto che lui vive la moglie un po' come la madre. E lo stesso naturalmente la moglie che, parlando del marito, dice mio padre. Ma poi ci sono dei lapsus correnti, insomma, che sono molto interessanti perché ci dicono in realtà cosa una parte di noi pensa di quella situazione. Quindi, professore, facciamo attenzione, potremmo magari, oltre a toglierci l'imbarazzo o a farci una risata, magari soffermarci un po' su questi lapsus e cercare di capire che cosa ci vuole dire il nostro inconscio. assolutamente, io raccomando di segnarli, magari senza farsi notare dalla persona, fingendo di scrivere chissà che cosa, e poi dopo, finita la riunione, finita la giornata, ripensarci, perché in fondo questi lapsus sono degli avvertimenti che ci dicono stai attento, che tu su questa cosa stai pensando questa roba qua. Professor Risé, la ringrazio per essere stato con noi, le auguro una buona giornata. Arrivederci, buona giornata a tutti. Grazie, io dovrei scrivere però, professor Barbanti, io devo scrivere un'enciclopedia, perché le mie figlie le chiamo una con il nome di un altro, spesso scambio i nomi, non me ne vengono, insomma, professore, faccio le valigie e vengo da lei? Benvenuta, ma un consiglio che darei è di dividere il numero dei lapsus e il numero delle parole. Lei vive parlando e alcune persone conseguentemente sono più a rischio. Vorrei dare un'altra chiave di lettura, oltre a quella straordinaria che è appena stata detta dal collega, è quella non solo di indagare il contenuto, ma ci consente vedere una persona che fa dei lapsus di fronte a noi, di capire due cose. Uno, quello che in quel momento rappresentiamo noi, e la seconda, quello che loro stanno provando. Faccio un esempio, se sono una persona di particolare carisma, non parlo di me, parlo in maniera impersonale, è più facile che la persona di fronte a un colloquio fissando negli occhi vada incontro a dell'altro, quindi sarà comunque un'informazione della nostra relazione. D'altra parte, passiamo a tutt'altro ambito, gli interrogatori degli inquirenti che durano a volte 6-7 ore, sono alla ricerca certamente di altre verità, ma annotano accuratamente anche queste manchevolezze, questi lapsus che sono in quel caso veramente strutturalmente importantissimi. E poi un'ultima cosa, pensiamo alcuni di noi, direi tutti noi, oltre a dei lapsus dei quali ci accorgiamo, incorrono in lapsus assolutamente inconsapevoli. E la persona di fronte dice, ti rendi conto quello che hai detto? E noi non ricordiamo assolutamente nulla, non ci sembra di avere detto quella frase o quella parola. E quindi questo è un criterio che così può spingere tutti noi a un'analisi più approfondita di quello che in quel momento proviamo, di ciò che c'è all'interno di noi e anche del livello di tensione che nel rapporto con una situazione o con una persona stiamo sviluppando. Andiamo dal nostro professor Iannoccari. Allora, abbiamo cercato di fotografare un po' questi lapsus, questi scivoloni da più angolature, abbiamo sentito anche l'interpretazione della psicoanalisi, quindi cerchiamo di fare un po' attenzione, ma nello stesso tempo, professor Iannoccari, che cosa possiamo fare d'altro? Intanto osservare quello che è il nostro stato attuale nel momento in cui ci capitano i lapsus, dei momenti di stanchezza piuttosto che un affaticamento durante la giornata, piuttosto che un affaccendamento che soverchia le nostre risorse, sicuramente ci fa incorrere nei lapsus. Quindi prendere atto che il momento che stiamo attraversando è un momento di eccessiva fatica e quindi giustificare quello che sta capitando, se possibile rallentare il passo in modo tale che il sistema di controllo di cui parlava prima il professore possa lavorare al meglio. Noi certo. Abbiamo un sistema, una cabina di regia che organizza il nostro discorso e mettere le parole giuste al posto giusto. È un po' quando si parla, è come fare una ricetta. Noi partiamo dall'idea che vogliamo esprimere, quindi dalla ricetta, e da lì passiamo quindi a quelle che sono le nostre risorse nel frigorifero, nella cambusa, e andiamo a prendere gli ingredienti. In questo caso noi accediamo al lessico, per cui andiamo nel magazzino dove sono contenuti tutti i termini di cui disponiamo e scegliamo gli ingredienti che fanno al caso nostro per costruire la nostra ricetta, quindi per articolare il nostro discorso. Dopodiché, raccolti tutti gli ingredienti, li mettiamo sul tavolo di lavoro, che per noi è la memoria di lavoro. Si chiama buffer fonologico, questo spazio che noi riserviamo alla costruzione della frase, e lì iniziamo a manipolare, a mettere insieme i diversi pezzi. In questi passaggi tutto deve funzionare bene, altrimenti può succedere che al posto di friggere la cipolla friggiamo l'aglio, se questo non è previsto, piuttosto che tagliuzzare il pomodoro al posto del prosciutto, e così via. Per cui se il nostro sistema non riesce a monitorare attentamente tutte le procedure ci possono essere delle confusioni nei passaggi, e quindi al passaggio dalla, diciamo, da questo sistema di lavoro al sistema poi motorio, che serve per esprimere in modo, diciamo, comprensibile fonetico, anche ciò che stiamo dicendo, succede che qualcosa non è andato al posto giusto. Andrea, buongiorno da Rimini, ci chiama all'800 24 00 24. Buongiorno. Eccoci. Volevo chiedere questo, praticamente, molto legato a quello che ha appena detto il professor. Praticamente, a me capita questo, sto lavorando, scrivendo qualcosa al computer, penso che devo andare in uno scaffale che magari si trova nell'altra parte dell'ufficio a prendere un determinato foglio, una determinata pratica, mi alzo con questa destinazione, appena faccio 3 metri dalla mia sedia, dimentico completamente l'oggetto di quello che avevo appena pensato. Ed è una cosa che mi capita sempre più spesso. Desideravo sapere se era legata a qualcosa di un vuoto momentaneo di memoria o comunque ci sia qualche causa a livello patologico. Beh, questo rientra in quello che dicevamo prima rispetto all'affaticamento, a tutta una serie di pensieri che noi abbiamo nel momento in cui ci alziamo dalla sedia per andare in archivio a prendere quel foglio. Allora succede che il nostro sistema non riesce a mantenere la memoria di quello che dobbiamo prendere nell'altra stanza. I pensieri che interferiscono, che nel frattempo, diciamo, ci rapiscono, ci distraggono, e quindi perdiamo lo scopo. Quindi questa è una dimenticanza dello scopo, però si può fare qualcosa. Si può fare qualcosa, ne parliamo subito dopo le informazioni sul traffico. Pronti con un'altra parola? Molti di voi mi chiedono, ma allora io vorrei esercitarmi di nuovo. Allora ho pensato che il libro ve lo faccio arrivare io a casa, e ho pensato di legare al prossimo gioco un libro che noi dedicheremo con Laura Vanossi dalla redazione di Essere Benessere. A tavola non si invecchia, un libro di cui abbiamo parlato tanto, dove ci sono delle ricettine molto sfiziose, quindi state lì perché tra poco il professor Iannoccari vi metterà nuovamente alla prova e darà dei suggerimenti a chi, come il nostro ascoltatore, si alza e poi non si ricorda più che cosa doveva andare a prendere. Ma naturalmente il professor Barbanti ci dirà se questo atteggiamento ripetuto può essere un'occasione di così pensiero, oppure invece quindi noi possiamo fare finta di niente e tirare avanti, continuare, no, ad avere questi scivoloni. Essere benessere. Professor Iannoccari, allora noi siamo pronti per un altro esercizio. L'ascoltatore che chiamerà l'800 24 00 24 con il risultato naturalmente corretto riceverà a casa da parte mia, aggiungo anche naturalmente Laura Vanossi, a tavola non si invecchia. Lo faccia un po' facile però. Un po' più difficile dell'altro. Un po' più difficile del primo, visto che le risposte sono state davvero tante e brillanti. Questa volta propongo di partire dalla parola olio per arrivare in 4 passaggi alla parola elmo. Olio, elmo. 800 24 00 24. Professor Barbanti, ma le persone invece che non fanno mai lapsus sono delle persone che sono particolarmente presenti a se stesse? Beh, sono persone fortunate e che hanno un ottimo metodo. Intanto sono persone che sono in grado di sfiatare la propria tensione nelle condizioni, nei momenti opportuni, dotate di un grande autocontrollo. Autocontrollo è un termine spesso inflazionato, ma vuole implicare tra le varie cose questo. Vorrei dire una cosa per gli ascoltatori, è un qualcosa che ai neurologi capita spesso di sentire come lamentela: non mi ricordo un nome, sarà mica l'Alzheimer. Vorrei ricordare che la memoria dei nomi, qui non mi sovrappongo al collega che ha ben più titoli per parlare, è una memoria molto più facile da essere diciamo stressata e rovinata dalla tensione o da tante circostanze così casuali, mentre invece la memoria delle immagini è molto più robusta. E allora direi di immaginare uno di noi che si mette, non so, in un bel piano sulla Valbadia e cerca di riconoscere le cime. Lei riconoscerà, sarà un profilo familiare, ci è andato 100 volte e non ne dimenticherà nemmeno una, ma ogni volta chiederà come si chiama. Quindi direi depenalizziamo nella maggior parte dei casi il reato della aphasia nominum, cioè della difficoltà di denominazione nei soggetti che conducono la vita, che ahimè conduciamo un po' tutti noi, quindi con alte velocità e scarsi recuperi. Professor Barbanti, grazie per essere stato con noi. Noi tra poco ci trasferiremo in cucina per una ricettina, perché noi vogliamo anche capire quali sono gli alimenti che piacciono al nostro cervello. È quasi ora di pranzo, o perlomeno insomma in cucina ti inizia un po' a spadellare, per cui potrebbe essere utile dare la preferenza ad alcuni alimenti. Professore, grazie per essere stato con noi. Grazie, arrivederci. Buonissima giornata. Intanto allora arrivano all'800 24 00 24. Laura Vanossi ci passerà l'ascoltatore che in tre passaggi, olio elmo, sì. Ma meno i passaggi, cioè devono essere tre però, Sì, assolutamente. Tre parole intermedie. Io voglio salutare la professoressa Sara Farnetti, internista e nutrizionista all'Università Cattolica di Roma. Buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, è tempo di preparare qualcosa di buono anche per il nostro cervello, qualcosa che lo aiuti a essere sempre pimpante, attivo. Che cosa possiamo mettere in padella? Sicuramente gli alimenti apportano sostanze che servono per sintetizzare i neurotrasmettitori, queste molecole che regolano l'umore, l'attenzione, la memoria, l'aggressività. È importante quindi saper scegliere gli alimenti e anche il momento in cui li mangiamo. Sì. Allora vediamo insieme dei punti chiave. Innanzitutto carne a pranzo e pasta a cena. Carne intendo una proteina, che può essere il pesce, può essere la carne, oppure per chi non ama carne e pesce va bene l'uovo, o comunque delle sostanze che contengano proteine. Perché? Perché le proteine sono in grado, dopo pranzo, di garantire, ecco, lo stato di veglia, ci danno tono. Invece se mangiamo un piatto di pasta o abbondiamo troppo con gli zuccheri, ecco che arriva la sonnolenza che tutti un po' conosciamo. Quelle stesse però... quegli stessi alimenti come la pasta e il riso sono importanti invece la sera, perché se dopo pranzo vogliamo essere performanti, svegli ed attivi, di sera dobbiamo riposare meglio, e infatti nella pasta è contenuto il triptofano, una sostanza che serve alla sintesi della serotonina, l'ormone della felicità e del sonno, perché il cervello se riposa di notte, la mattina naturalmente è più può essere più concentrato, più attivo, perché recupera. Quindi proteina a pranzo, un carboidrato a cena e un sonno ristoratore. Attenzione però, nel nostro pasto sempre inserire qualcosa di fresco, vitale, perché aumenta la vitalità. Ricordiamoci che il nostro corpo è in grado di sintetizzare questi neurotrasmettitori solo se ha a disposizione anche delle vitamine, che sono un po' quelli che ci permettono di formarli, di produrli, come la vitamina B3, la vitamina B6, la vitamina C, l'acido folico, che si trovano appunto nelle le verdure, ma soprattutto quando le mangiamo crude, che sono quando sono fresche, non qualche preparato industriale. Quindi i nostri pasti sempre composti da cibi vitali, magari mangiati anche all'inizio, perché no, come se fosse il nostro tocca sana. Poi mi raccomando, pasti semplici. Se noi complichiamo i pasti, quindi mangiamo mescolando carne e pesce, mangiamo pasta molto condita, ma molto condita intendo ecco con formaggi oppure con sughi elaborati, perché l'olio extravergine invece è sempre essenziale, importante, un antiossidante di cui anche i nostri neuroni si giovano. E poi, ultimo consiglio, mettiamo nel nostro piatto il pesce. Il pesce contiene acidi grassi essenziali. Il nostro cervello è molto ha molto bisogno di omega 3, in particolare i cosiddetti DHA che sono nei pesci. Allora, non lo dimentichiamo, non lo mangiamo una volta due a settimana se ci capita, cerchiamo di aumentare il consumo di pesce. E poi diamo un rimedio, Nicoletta. Dai. Allora, quando vogliamo sentirci più tonici, non andiamo ad abusare di caffeina oppure le bibite tipo cola che contengono la caffeina, perché quella ci dà tono, però non migliora la concentrazione, nel senso che magari ci rende un pochino più anche aggressivi, però meno lucidi. Invece una cosa molto utile per il nostro corpo è del limone. Veramente, a me piace un sacco. Tra ecco, l'altro. Adesso poi tra l'altro è fresco, quindi è fresca, adesso che rinfresca. Una spremuta di limone con un pizzico di zucchero, per chi non la tollera così, sì, assoluta, e un pochino d'acqua, è molto utile per risvegliare non solo il cervello ma tutti i nostri organi, perché contiene, oltre alla vitamina C, che in questo caso non è l'unico toccasana, ma contiene appunto il citrato, l'acido citrico. Quindi andiamo di limone, perché professoressa Farnetti, io devo dare la parola velocissima a Ivano da Roma. Ivano, mi dica le parole, perché io voglio darle il libro. Buongiorno. Allora, io ho trovato olio, ulmo, telmo. Dovevano essere tre passaggi, ma vanno bene. Massimo tre passaggi, vanno, fantastico! Massimo, allora meno. Ancora di più, allora le spedisco, a tavola non si invecchia. E mettiamo anche una dedica a lei da parte mia e di Laura Vanossi. Voilà. La ringrazio. Grazie Ivano, grazie alla dottoressa alla professoressa Farnetti. Io lo aggiungo anche nell'insalata, un po' gli spicchetti di limone, vanno bene? Ottimale. Ci sentiamo presto, grazie professor Iannoccari, grazie a voi che ci avete seguito. Oggi abbiamo anche giocato, è un'abitudine che riprenderemo. E intanto vi devo salutare davvero, buona giornata, a domani. Essere e benessere.